Inviloop di e con Daniele Parisi. Ci racconti un po' del tuo percorso artistico, Daniele, come è cominciato tutto? Tutto come è cominciato, da che è partito? Succede le tipiche cose che dicono tutti quanti gli attori. Io da ragazzino facevo, prendevo la telecamera del mio padre, facevo le cose. E quindi facevo tutte le cose che fanno i ragazzini a quell'età. Problema che poi con l'età dello sviluppo io non ho smesso di farlo. E quindi tutti i ragazzini, tra l'altro del piccolo paese dove io abitavo prima di venire a Roma, insomma, mi prendevano un po' in giro, perché dicevano: questo è pazzo, va in giro con la telecamera e fa queste cose in giro. E allora poi ho cominciato a fare il teatro al liceo, a scuola, come fanno tutti quanti, e poi ho provato all'accademia. Come fanno tutti quanti, io non l'ho mai fatto. No, come fanno tutti quanti quelli che vogliono fare gli attori, insomma, eccetera. No, oppure anche taluni o altri un po' per rimorchiare. Io lo facevo perché c'era, insomma, una mia carissima amica che mi diceva: no, tu devi fare teatro, vieni a scuola, fallo, facciamo. E quindi ho cominciato a fare teatro a scuola, al liceo. L'anno dopo c'era l'esame in accademia, io lo faccio e non mi prendono, chiaramente. Allora faccio l'università e comincio a fare una scuola di teatro nel frattempo, e 3 anni dopo poi riprovo all'asilo d'amico, all'accademia, entro e faccio questi 3 anni d'accademia lì dentro, credendo che il mio futuro sarebbe stato quello di fare Amleto all'Argentina. Questo è quello che ti dicono lì dentro: voi farete quando andrete in tournée. E quindi pensavo di fare Amleto o quant'altro, mentre invece succede che finita l'accademia comincio a fare l'attore scritturato per 3-4 anni, e succede una cosa strana, perché succede che io sogno che mi cadono i denti, cioè entro proprio in crisi, cioè tutte le notti faccio questo sogno ricorrente dove mi cadono i denti, e allora capisco che devo cambiare qualcosa nella mia vita, e succede che incontro Paolo Rossi. Lavoriamo per un breve periodo insieme in uno stage che per me è stato fondamentale, perché era sulla scrittura comica. Dove tutto questo? Tutto questo era la Maddalena, la valigia dell'attore, così si chiamava. Sì, sì, sì, sì. Siamo stati un mese lì e io sono tornato a Roma, era il 2009, e ho scritto il primo spettacolo. E da lì, dal 2009 fino ad oggi, ne ho scritti 3 e sto preparando, teoria, scrivendo il quarto. Il quarto. Ecco, questo è. E dove ti muovi in genere per mettere in scena i tuoi lavori? Ma solitamente, diciamo, ecco, io vado dove mi chiamano. Ecco, ormai, diciamo, è la realtà dei fatti. È la realtà. Si è creato un piccolo circolo underground che è molto interessante. Cioè, credo che Roma in questo momento si stia muovendo molto bene rispetto. Perché spesso si parla sempre dei gloriosi anni 90, no? Dove sono nate molte realtà artistiche. Pensiamo a Celestini, Antonio Rezza e quant'altro. Nati anche molti dal teatro di Roma, Martone. Ecco, credo che questo sia un momento molto interessante, perché c'è una grande crisi teatrale e le crisi portano sempre a innovazione. Quindi questo, secondo me, è un momento di grande fervore, c'è un bel movimento che nasce dal basso e spero che fra qualche anno riuscirà a imporsi in qualche modo. Senti, a proposito di vicinanze e di spazi, mi dicevi che debutti sempre con i tuoi lavori al Cinema Palazzo. Sì, sì. Ma uno un po' per vicinanza. Per l'appunto. Le faccio prima, faccio subito. Sto qui. Però no, in realtà no, perché c'è una grande affinità col cinema, principalmente perché apprezzo tantissimo quello che fanno e credo molto in quello che fanno sul territorio, e trovo che sia una cosa molto intelligente andare in un posto e fare cultura, a differenza di altre cose che si fanno. E lì dentro mi sento un po' a casa, nel senso che trovo una grande disponibilità da parte loro che organizzano, e c'è la possibilità sia di provare gli spettacoli prima e debuttare in un luogo che è sincero, cioè nel senso ci sono persone che vanno lì a vedere spettacolo perché sono interessate. Oggi è difficilissimo, perché come dicevamo prima, insomma, i teatri chiudono, spesso l'età è molto alta, invece al cinema ci sono i tuoi coetanei che vengono a teatro, che è una cosa rivoluzionaria per questi tempi. Arriviamo agli spettacoli. 3 spettacoli, come nascono e come ci lavori sopra? Ma io solitamente scrivo delle cosette, diciamo delle bozze, e poi tutta scrittura di scena, cioè salgo su, mi riprendo, improvviso, lavoro tantissimo con la Loop Station, sì. Spesso molte cose le tengo, altre cose le tolgo, cioè, le utilizzo come se fosse un metronomo spesso, mi do il tempo e quindi costruisco le cose anche come contrappunto, sì. Ritmico, quindi è un lavoro anche molto musicale. Ti dà ritmo? Sì, sì. E quindi è proprio anche una scrittura musicale di scena insieme, cioè che nasciamo insieme e le parole escono fuori col movimento e lentamente lo spettacolo cresce, ci vuole sempre un po' di tempo, ecco. Mm-hmm. Ci metto un annetto e mezzo per creare tutto quanto e poi lo provo a pezzetti, magari provo 20 minuti, un quarto d'ora, lo provo col pubblico, faccio delle seratine un po' intime con altre persone e poi quando sento che è pronto busso al Cinema Palazzo, fa 15 giorni di prove, lo allestisco e si debutta lì e poi si va in giro, insomma, come se si può. E i personaggi nascono dallo studio della realtà? Ma io vivendo qui spesso vado alla stazione Termini e le stazioni sono dense di umanità più sì. disparata, spesso condite anche un pochino di disperazione, diciamolo, sì. Però spesso ci sono delle cose molto interessanti, quindi io spesso passo molto tempo alla stazione, guardo le persone che arrivano, che partono, che stanno lì, che abitano lì anche. E spesso quindi nasce dall'osservazione, i corpi, ecco, come si muovono, spesso io rubo le cose vedendo le persone e poi le rifaccio, spesso o le esagero, le porto all'estremo, però ecco, molto nasce dall'osservazione di quello che c'è intorno a me, ecco. Mm-hmm. Senti, hai fatto dei riferimenti artistici, dicevi Paolo Rossi, Ascanio Celestini, Antonio Rezza, ecco, quali sono gli artisti che ti piacciono, che segui, magari ti hanno anche ispirato in qualcosa? Primo fra tutti è Enrico Montesano perché è un maestro, io sono cresciuto con Enrico Montesano, è stato il primo artista che io comico che ho visto dal vivo. Uh-huh. Cioè ero piccolo e guardai Bravo, che era il suo one man show in cui lui fondamentalmente faceva i personaggi, quindi è un comico che io guardo sempre con grande ammirazione e anche perché lui ha fatto una delle cose che io sognerei di fare, lo dico, che è Rugantino. Ecco, diciamo che se io facessi Rugantino potrei anche morire il giorno dopo perché avrei fatto tutto. Beh, una delle versioni tra l'altro migliori con Aldo Fabrizi, sì, sì, sì, sì. Che non c'aveva niente a che veramente da invidiare a quello che faceva Manfredi, no? Mm-hmm. Tanto bellissimo, però ecco, Montesano è un bellissimo punto di riferimento, come anche alcune cose da Petrolini, perché poi Petrolini poi è il maestro di tutti, cioè, il trasformismo. Sì, Petrolini è il padre di Raschel, di Montesano, di Proietti chiaramente e anche via dicendo, anche Rezza, cioè Rezza prende tantissimo da Petrolini, c'è cioè, poco da fa, quindi non siamo tutti figli o aborti di Petrolini. Mi piace tantissimo il lavoro che fa ad esempio Antonio Albanese, cioè la caratterizzazione dei personaggi che fa Albanese è molto interessante perché lui, avendo studiato ad esempio con Dario Manfredini, no? È uno di quelli che fa nascere i personaggi dal corpo e lì poi nascono le voci e tutto il resto. Mi piace molto il lavoro che fa sulla scrittura di scena Rezza e mi piacciono i virtuosismi di parola che fa Celestini o Bergonzoni ad esempio. Ecco, questi siamo sui riferimenti. E anche se non fa teatro, però l'anima dentro c'è sempre, penso sempre all'inadeguatezza di un altro grande maestro che è Carlo Verdone. Questi diciamo sono i riferimenti più chiari. Sì, sì, sì. Senti, lavori sempre solo o ti piace anche fare cose con altri? Diciamo che ora sono anni che sto da solo, però non escludo la possibilità di tornare insomma con qualcun altro. Quando hai lavorato con altri è cambiato anche molto il tuo modo di lavorare, cambi molto il tuo modo di lavorare. È inevitabile, ma perché il dialogo non è più a due, cioè tra me e il pubblico, ma diventa a tre, cioè tra me, il pubblico e l'altro. E quindi le regole del gioco inevitabilmente cambiano. Però ecco, sì, è sempre bene per un attore comunque ogni tanto lavorare anche con altri attori, altrimenti si rischia un po' l'autismo e quindi essere attraversati da altri personaggi, dai tuoi tanti te, dalle tue tante voci è bello, però ogni tanto è bene, esiste anche il mondo e la socialità, e quindi ma tornerò a teatro, insomma, non dico ancora niente, ma insomma c'è uno spettacolo molto bello in cantiere, una cosa anche molto importante, quindi anche molto drammatica, anzi tragica direi, tragica, quindi tornerò a teatro facendo una cosa lontanissima da quello che sto facendo ultimamente, quindi sarà molto bello. Il timbro sempre sul comico per i tuoi tre spettacoli? Sì. Mi piace dire comico / grotteschi, certo. Sì, perché lavoro molto sulla deformazione della realtà e l'utilizzo della voce in qualche modo portato anche all'estremo, no? Mi aiuta a caratterizzare i personaggi in questo modo, insomma. Cioè, lavoro tantissimo sulla voce, ecco, questa è una cosa che mi piace dire. Per la radio poi andava benissimo. Certo, no, infatti, no, è perfetto. Era perfetto. È fantastico. Sì. Senti, a proposito di lavorare con gli altri, una prossima data con Ivan Talarico. Con Ivan Talarico. Che abbiamo avuto anche qui al radioteatro. Sì, no, Ivan è un grande amico, è una persona che stimo tantissimo e quello che fa è molto, molto bello. Io, quando ho visto il suo concerto ultimamente qui al Cinema Palazzo, cioè sembrava veramente di vedere un giovane Iannacci, quindi lo stimo tanto e abbiamo già fatto una serata insieme. Il connubio tra i due è molto interessante, che alterniamo la musica a pezzi miei che leggerò inediti, quindi sarà molto suggestiva come cosa. Quindi lui canta e suona, tu leggi, ma ci sono anche dei duetti, immagino. Questo lo stiamo organizzando, ci saranno anche delle cose insieme, sì. C'è un paio di cose le abbiamo fatte anche insieme, abbiamo scritte, quindi vedremo che succede. Senti, abbiamo chiaramente sentito la voce e i giochi che fai con i vocalizzi, però ci sono anche delle azioni sceniche nel tuo spettacolo. Assolutamente. Tra l'altro io costruisco gli spettacoli e i personaggi chiaramente partendo anche dal corpo e solitamente quella che è l'intenzione del personaggio quando entra in scena caratterizza anche il motore, possiamo dire, no? Il motore, il vettore che in qualche modo formalizza poi il corpo. E quindi se faccio un vecchio oppure se faccio una bambina o un bambino, perché ce ne sono diversi, ragazzini che ogni tanto entrano negli spettacoli, lavoro partendo proprio da questa fisicità. E gioco molto sul trasformismo, perché utilizzando una piccola tendina che sta al centro della scena io cambio, cioè vado lì dietro, mi nascondo come si faceva, non so, forse nell'avanspettacolo, no? Tanto tempo fa, con le marionette, no? Io vado lì, mi cambio il cappello, esco. Infatti molti mi hanno sempre detto: ma perché non fai una scenografia, no? Io credo che, a parte che siamo in un periodo di crisi economicamente poi Fregolin c'è la scenografia, appunto, Fregolin non ce l'aveva, quindi va benissimo così. La tradizione è anche su questo, cioè teatro povero, poche cose, una tendina, due oggetti e basta, una luce puntata e la loop station. Senti, per sapere cose in rete sulla tua attività, sulle tue date, hai un sito internet, una pagina Facebook? Yes. Sì, assolutamente, c'è il sito che è www.danieleparisi.org e poi c'è la pagina Facebook, la pagina fan. Puoi mettere il like. C'è la fan page. Mettere il like. E io lì scrivo le date insieme ad altre idiozie. Per esempio, l'altro giorno ho pubblicato un video dove ci sono io a Fiano Romano, perché c'è stata un'occasione bellissima. Ho detto, l'ho visto! L'hai visto, sì. Dove sto in lì, macchina. Oh, esatto, col microfono e grido: questa sera Fiano Romano, c'è lo spettacolo! E la gente chiaramente era inorridita, stupita da quello che succedeva. Un banditore. Sì, un banditore. Perché è successo che questi ragazzi che organizzavano, bravissimi tra l'altro, però quello che c'aveva il microfono diceva: questa sera alle ore 21 uno spettacolo al castello, cioè Daniele Parisi. Ho detto: aspetta. Faccio io, vengo io, togliti. E abbiamo cominciato: questa sera, signore, lei che sta lì in piedi, che mi guarda, non sono pazzo, questa sera alle 21 lo spettacolo, venite. Ed è stato 40 minuti di follia. Tanto sono anche venuti i vigili urbani però insomma sono stati molto clementi, perché lì insomma hanno capito la situazione, anche la multa. Però poi siamo stati bravi, ho detto no, ma noi così per fare pubblicità, in maniera molto scherzosa, giocosa, ho capito, ma sono pure le 4 del pomeriggio, la gente dorme, e ho capito, stasera però l'ingresso è gratuito, e quindi beh no, nessuna multa, è andato tutto bene, eh no. Ecco, metto anche queste cose nella pagina. Pubblico anche questo. Ancora complimenti e grazie. Daniele, magari ci diamo appuntamento per una delle prossime volte. Assolutamente sì, con grande piacere. Benissimo, allora a presto. A presto, ciao.